noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Beh ragazzi, oggi è un giorno storico, non solo per tutti i convocati, ma per Radio 24 intera, che ormai ha 18 anni di vita, e c'è con noi la signora, c'è con noi Sua Maestà, e ci sono con noi due persone che ce l'hanno portata per mano dopo averla vinta, dopo aver vinto questo trofeo che è il più bello del mondo. Allora, siamo tutti qua naturalmente con Pierluigi Pardo. Ciao a tutti, buongiorno, Giovanni Capuano, con Dario Ricci. Ciao, ma soprattutto con loro, Marco Scafù e Cristian Chivu. Come va ragazzi? Ciao, buongiorno, bene, grazie. Vi piace questa vita da DJ? Da DJ, VJ, per poi siamo anche in diretta Facebook. Siamo anche in diretta Facebook. È una bella vita, Sembra dei Cruciani e Parenzo, potrebbe essere un'alternativa alla Zanzara. Ci abituiamo. Com'è la coppa? Bellissima. Bellissima. Aspetta, posso fare una cosa? Ma hanno detto di non toccare questo trofeo, il più bello del mondo. Però io non la tocco. Però, dato che la radio è fatta di suoni, di rumori, di musica, voglio fare una cosa. Vengo subito. Ci arrestano. Salvate la coppa. Attenzione, sta prendendo il microfono. Ho paura. Il rumore di una penna da 50 ci fa sentire, traduco. Il trofeo più bello del mondo. Attenzione. Stavano arrestando subito. Cartellino giallo. Cartellino giallo. Vabbè, fa niente. Allora, mi dite com'è dopo qualche anno, insomma, rivederla, toccarla, vedere la reazione che fa sulla gente, perché poi voi siete ambasciatori Unicredit, girate tutta l'Europa per farla vedere. C'è la reazione dei bambini, ma non solo dei bambini, anche di noi bambini adulti. No, che è incredibile, Marcos. È una sensazione veramente impressionante, pazzesca. Io sono stato un mese fa in Giappone con la Coppa. Veramente, dove vai, dove passa, è una roba impressionante. Come la gente riesce a vedere in una maniera molto, molto diversa questa Coppa. Infatti, è un campionato tutto diverso degli altri campionati. Ho vinto due volte la Libertadores, che è l'equivalente, però adesso non è per tirarcela. Com'è? C'è una differenza? Guarda, è sempre un campionato diverso, un campionato dove ci sono delle grandissime squadre, però la Champions League è tutta diversa, dove sono le squadre più forti e più grandi del mondo, dove sono i giocatori più forti al mondo, perciò è una competizione molto molto diversa e vincerla è ancora molto più bello. Qual è quella che pesa di più? Ma pesa proprio, tirarla su. Pesa proprio questa qua. Questa qua. Questa è un po' più difficile da tenerla, un po' più grande. Però l'adrenalina è più piccola, più importante. Stiamo parlando con un signore che ha tirato su anche la Coppa del mondo, no? Infatti credevo che stava paragonando con quella. Sì. Cioè la Libertadores per lui è una robetta, capito? La usa per come boccale, insomma, per bere la birra. Si è allenato con la Libertadores e poi ha fatto tutto il resto. Tu sei l'ultimo, Cristian Chivu. Sei l'ultimo italiano con l'Inter, italiano, sei uno di noi, ultimo rappresentante di una squadra italiana insieme a Mourinho, insieme a Zanetti, capitano, ad averla alzata questa coppa, ed è stata la conclusione di una stagione storica che è finita negli almanacchi, rimarrà lì per sempre. Cosa ti sei portato dietro? Io poi sono molto curioso, perché voglio chiederti e chiedere anche a te, Marcos, della vigilia di queste partite. Partiamo dalla vigilia, ultimo giorno prima dell'esame, cosa ti ricordi? Ma tanto, perché stai provando a cercare di trovare la serenità, che comunque non è facile, perché la cosa che ti impaurisce di più è il fatto che potresti perdere la finale, e quello te lo devi levare dalla mente, ed è difficile levarlo, perché comunque sai di aver raggiunto un grosso obiettivo, però ancora non l'hai compiuto, quindi arrivare in finale per perderla, secondo me, No, è meglio, è meglio non giocare le finali perse. La notte prima, Christian, si pensa più al fatto che la puoi vincere o al fatto che la puoi perdere? È un misto di emozione. L'allenatore, tutto lo staff prova a darti tutti i dati, tutte le cose che ti servono per andare in campo per vincerla. Però siccome il calcio non è un dato di fatto, niente è scontato nel calcio, hai paura anche di perderla. Quindi nella tua mente girano mille cose, per la testa girano mille cose. Quella partita lì, poi in campo hai mai avuto la sensazione di perderla? Quella finale, ovviamente parliamo del 2010, parliamo del Santiago Bernabeu, parliamo di Inter-Bayern. In campo no, non ho mai avuto questa sensazione, anche perché comunque avevamo fatto tutto quello che ci è stato chiesto dall'allenatore e avevamo fatto anche molto di più di quello che avevamo preparato. Perché? Per raccontare una cosa, all'intervallo il nostro allenatore era anche un po' incazzato perché giocavamo troppo bene di come l'allenatore era preoccupato. Non era abituato, eravamo più offensivi del solito. Mi ha fatto il discorso motivazionale, sai che Guardiola prima di Barcellona, Manchester United da Roma ha fatto vedere il gladiatore. Mourinho faceva. Guarda, io volevo sapere proprio spogliatoio prima della partita. Ultime parole, lo chiedo a Christian Chivo e a Marco Scafù. Mourinho, Ancelotti, cosa ricordate di quello spogliatoio e quali parole ricordate? A proposito di parole, 800240024, siete invitati anche voi, amici ascoltatori. Allora, spogliatoio, prima della partita, Marcos, cosa ricordi? Ma Ancelotti era uno molto molto tranquillo, lui chiedeva veramente l'ultima parola era di fare quello che abbiamo fatto in tutta la settimana. Non dovevamo cambiare niente. Abbiamo fatto un lavoro dall'inizio alla fine anno per arrivare in finale, per giocare la finale. Perché cambiare adesso? No, è fare quello che state facendo in tutta la settimana. Era molto, molto, molto semplice e molto sereno. Chris, credo che Mourinho fosse un po' diverso. No. Trasmetteva sempre serenità. Mi viene difficile a ricordare le ultime parole dell'allenatore, però comunque sono le cose generali che prima di una partita qualsiasi allenatore ti trasmette. Noi avevamo un'abitudine che prima di una partita parlava un giocatore, lo sceglieva Mourinho a turno. Prima di uscire in campo quella persona scelta trasmetteva qualcosa. Mi viene, non ricordo nemmeno chi ha parlato. Discorso memorabile, proprio tipo Steve Jobs. Secondo me fu Eto'o. Ma è vero, Chris, è vero che nel periodo tra la semifinale a Barcellona e la finale di Madrid, Mourinho vi diceva: fatto il Barcellona, questa è vinta. Cioè, credo Materazzi che ha raccontato che gli mandasse i messaggini dicendo finisce 2-0 col Bayern. Insomma, la convinzione era quella. Era andato a vedere la finale di Coppa dove il Bayern giocava, credo, contro il Borussia Dortmund. Tornando da quella partita, ad alcuni giocatori aveva detto che la vinciamo 2-0. Voi Marcos, invece c'avevate meglio di Capuano nei pronostici. Voi c'avevate la scimmia del Liverpool sulle spalle, perché c'era stata Istanbul e c'era la rivincita, no? Come si lavorò per dimenticare Istanbul per quei 7 minuti, insomma? Sì, infatti sì, dovevo dimenticare subito che si iniziava la partita. Abbiamo avuto l'opportunità in 2005 di vincere quella partita, non abbiamo vinto. Era una partita di finale molto facile per noi all'inizio del primo tempo, come abbiamo fatto 3-0, poi abbiamo visto tutto buio davanti a noi. Abbiamo trovato sì, una squadra molto compatta e molto molto bella postata in campo. Nel 2007 abbiamo proprio dimenticato, non abbiamo entrato in campo con la sensazione di rivincita, no? Abbiamo entrato in campo consapevole che stava davanti una squadra fortissima che era abituata a giocare questo tipo di questo genere di competizioni finali e dovevamo avere l'attenzione, il doppio dell'attenzione. Assolutamente, il doppio d'attenzione. Yeah, abbiamo yeah, l'hashtag, perché De Luca ci tiene tanto, abbiamo, ci tengo tanto anch'io. Ricordo Champions, mandateci i vostri ricordi Champions, ovviamente con WhatsApp, sui social network. E perché fai il segno? Ah, pianoforte, mi mava il pianoforte, ma in realtà era Twitter. E ovviamente con chiamate 800 24 00 24. Adesso c'è il traffico. Convocati. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presenta. Tutti convocati. Prova Pirlo. Dentro per Inzaghi, Inzaghi, Inzaghi, Inzaghi, Inzaghi, Inzaghi, 2-0, è probabilmente quello che permette al Milan di mettere le mani sulla settima coppa dei campioni della storia rossonera. Paolo Maldini riceve la settima coppa dei campioni della storia del Milan. I rossoneri sono campioni d'Europa e con questo urlo Maldini mostra ai compagni, ai tifosi, la Coppa dei Campioni. Parlavamo proprio di questo, no? Con Marco Scafue, Cristian Chivu, Pierluigi Pardo, Giovanni Capuano, Dario Ricci, ma soprattutto Giovanni Capuano lei, ha parlato, cioè, lei, con questi due campioni straordinari, ha passato il tempo del traffico a parlare della nostra sfida, perché è avanti 3-0. Ma ti rendi conto che provincialismo? Invece qua ci chiedono: avete fatto gesti scaramantici prima della partita? Siete scaramantici? Eravate scaramantici? No, io no, io mai. Non ci credo. Mai. Niente. No, nemmeno io. Ma soprattutto la domanda è: l'hai cambiata tra la prima e la seconda volta il gesto scaramantico? No, non è anche no, assolutamente no. Io invece voglio sapere un'altra cosa. Allora, siamo spogliatoio, è chiuso, partita, l'ha vista tutto il mondo. Al fischio finale, cosa provi? Si festeggia. Dentro cosa esplode? Non può capire cosa succede alle spogliatoie. Gli spogliatori dopo che finisce la partita, una volta che c'è la coppa in mano, è una roba veramente pazzesca, pazzesca. Chris, una volta Crespo disse... Non puoi, puoi dire quello che vuoi. Si fuma bella sigaretta. Sì, io sono scappato dentro lo spogliatoio. Come se nulla fosse, mentre gli altri erano fuori che festeggiavano, erano ordinaria amministrazione. Mourinho è scappato fuori a fumarla e ha preso pure un passaggio dalla macchina del Real Madrid, però. Per me era una cosa particolare, perché venivo dopo quel 6 gennaio del 2010, sì, sì, quando ho avuto quell'incidente alla testa. Dopo appena 4 mesi ero in campo a Madrid e avevo appena vinto la Champions, quindi la prima cosa che mi venne in mente di andare nello spogliatoio a fumarmi la sigaretta. Beh, Michael Jordan fumava i sigari, fumato sigarette. Beh, ma il sigaro è una questione di immagine. Io ho una grande curiosità che mi porto dalla semifinale di Barcellona, quando Chivu viene buttato in campo quasi all'ultimo, perché credo non fosse nella formazione titolare di Mourinho, va a chiudere il riscaldamento da solo, se non ricordo male, con il Camp Nou, che era una bolgia quella sera, e con Mourinho che rimane lì a guardare Chivu che sta finendo da solo il riscaldamento. Credo anche ti si avvicina per dire qualcosa, ma forse per prendersi lui i fischi, per evitare che te li prendessi tu. Tanto ne ho presi dei fischi in quella serata, come mai in vita mia, ma sì, si avvicinò per dirmi gli ultimi dettagli, anche perché mi fece giocare alla sinistra al posto di Goran, che si era fatto male, e mi chiese: c'è un problema per te? detto, no, per ma me no, non c'è un problema. Mi detto, intanto la tua preoccupazione devi essere soltanto Dani Alves. Il resto non me ne frega niente. Meglio che portiere, che no? Pensa che ti diceva di giocare in porta, meglio ala. Ma l'avrei fatto anche il portiere. Quell'anno se c'era bisogno, c'era qualcosa di c'era magico. Questo spirito di sacrificio da parte di tutti. E non a caso siamo riusciti anche a portare a casa questo trofeo. A proposito di quell'anno, ci scrive Giorgio, 39 anni, sono in auto con gli occhi lucidi sentendo Chivu raccontare la Champions 2010, ditemi se è normale. Io penso sia normale, insomma, no? La passione dei tifosi è questa, quindi ci mancherebbe altro, sono passati 7 anni. A proposito, Inter, Milan e Roma, tutti e due, ma quando è che una di queste tre potrà, non dico vincerla, ma avvicinarsi molto, passare delle notti come quelle che avete passato voi? Speriamo quest'anno proprio, il prossimo anno, una volta che tutte e tre vanno in Champions League. Il calcio italiano in generale ha passato un periodo un po' turbolento. Adesso cominciano a rivedere il calcio italiano veramente da maniera che devono vedere, come delle grandi società, grandi squadre, grandi club. E loro adesso stanno già cominciando a lavorare per tornare a diventare grande squadra in Champions League. Ecco, ci dicono anche Milan Liverpool persa i rigori, alla fine ho bevuto quasi una bottiglia di Barbera, non ho dormito, mi sono sentito rimbambito, poi il giorno dopo ho scoperto che molti altri milanisti erano conciati come me. Insomma, anche questa è una reazione che mi sembra assolutamente normale. Però c'è che si impara da una partita così terribile come Milan Liverpool, quella persa ai rigori, perché strameritavate di vincere, avevate dominato e anche sul 3-3 ci sono state le occasioni. Una volta che prende una sconfitta riesce a ragionare in una maniera diversa subito dopo la prossima partita. Noi abbiamo perso il mondiale in 98 in Francia e nel 2002 abbiamo vinto in una maniera tutta diversa. Nessuno aspettava che il Brasile poteva perdere quel mondiale giocando contro Francia, come nessuno di noi aspettava che poteva perdere quella partita contro il Liverpool dopo 3-0. Sono questo errore che ti fa ripensare in quel piccolo gesto, piccolo errore che tu riesci a commettere in campo. Abbiamo lavorato una settimana subito dopo che aveva già partita dei campionati, e un anno dopo già lavorando nuovamente per arrivare una volta in finale di Champions League. Una volta che arrivamo in finale 2007 contro il proprio Liverpool, abbiamo parlato, guarda, sicuramente non riusciamo a scommettere lo stesso errore che abbiamo scommesso 2 anni fa. Tutto lì. Lui l'ha fatta facile. Io ho letto, ci sono suoi compagni che per mesi hanno pensato che non aveva più senso andare avanti a giocare. Sono rimasti sempre Gattuso, Pirlo, credo l'abbia scritto anche nel suo libro, nella sua biografia. Che era una cosa senza senso, che non riuscivate. Marcos è così, sono molto, molto diverso. Sì. Se era così, io dovevo smettere dopo 98 che abbiamo perso il mondiale in finale. Sono riuscito a continuare a giocare, a lavorare, a cercare di sempre migliorare. Non puoi essere bravo solo quando vinci. E sono le sconfitte, gli errori che ti fa ragionare in una maniera molto diversa e rivedere che dall'altra parte esiste un avversario, una squadra che lavora per vincere, dei grandissimi giocatori. Secondo me quando arrivano in finale è 50-50, qualsiasi unque può vincere la partita a qualsiasi momento. Nessuno arriva in finale di Champions League o in finale del Mondiale per caso, arriva perché c'hai di qualità. 800-24-00-24, se volete intervenire, non credo capiti tutti i giorni di parlare con Cristian Chivu e Marco Scafù con il trofeo più bello del mondo qui alle nostre spalle, quindi è un regalo che vi facciamo. Voglio chiedere, in ogni percorso come questo c'è un momento determinante. Io chiedo a Cristian e poi a Marcos, qual è stato il momento determinante nel percorso verso Madrid e verso quell'oggetto lì? Ci sono, senza dubbio. Durante una stagione ci sono mille fattori che possono influire o no il rendimento di una squadra. Penso che per l'Inter quell'anno fu proprio... perché tutti parlano del Chelsea, tutti parlano che quello fu la svolta, no, invece io mi ricordo che siamo andati a giocare a Kiev col coltello in bocca. Due gol negli ultimi 5 minuti, no? Abbiamo vinto nell'ultimo minuto. Da 1-0 a 1-2 in 5 minuti. Se perdevamo quello eravamo fuori, quindi ci sono dei episodi che vanno al tuo favore durante la stagione, però non hai mai la concretezza e la certezza che arriverai in finale a vincerla. Però una volta sei lì ci provi, visto sì, che le cose, cioè, le cose momento, vanno c'è come... un momento chiave, infatti anche a me è venuto in mente quello, cioè Kiev, quando eri praticamente fuori con un piede, poi sei tornato. Beh, anche il Milan nel 2007 non aveva fatto un grande girone, poi da febbraio cambia, da febbraio tutto. Poi abbiamo la Champions proprio... cambia, cioè, per esempio, tanto per essere chiari, quanto debbono essere preoccupate Juve e Napoli e in qualche modo anche la Roma, anche se la Roma non ha perso da questo inizio incerto. Per me no, non devono essere preoccupati, perché la fase a gironi sono sei partite in cui te la giochi, possono accadere mille cose durante quelle sei partite. Per me passeranno tutte e tre. Per inciso, Kivu andò a Barcellona a novembre e fu una partita bruttissima dell'Inter, perse 2-0, mi ricordo le polemiche su Mourinho. Poi tornò a Barcellona, fece una partita simile, nel senso lasciando la palla agli altri, e fu il capolavoro di quella stagione. Quindi anche la Juve, che ha perso 3-0 a settembre a Barcellona, io credo è un'altra storia da febbraio in poi. Le partite sono diverse, perché un conto è giocare nei gironi e un conto è giocare a fasi eliminatorie, perché lì cambia tanto. Assolutamente. C'è un messaggio molto bello che ci manda un ragazzo del 1960, ragazzo insomma, amico mio, ormai roba da 57, che ci dice: uscì nel 2009 tifoso dell'Inter dall'unità spinale in sedia a rotelle con una vita da ricostruire, e solo qualche mese dopo la vittoria della Coppa fu una gioia indescrivibile per uno che nel 64 aveva 4 anni, insomma molto, molto orbi questo momento, ma devo dire che si mescolano le storie dei tifosi, i momenti magici della propria vita. Però c'è un uomo implacabile, che rapporto che hai Marcos con De Luca? Hai un buon rapporto? Buonissimo. Allora, De Luca dice che adesso c'è la borsa. Che rapporto hai con i mercati finanziari? E soprattutto, poi quando torniamo, ci dici se il Napoli può far bene in questa Champions. De Luca è abbastanza tifoso, vagamente. Borsa. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Eto'o trova Milito, vanno avanti i due attaccanti principi dell'Inter. Milito, una finta in area, ancora Diego Milito, la firma lui, probabilmente questa finale, questa coppa, è 2-0. Tutti pronti allora, ed eccola qui, nella notte di Madrid, la coppa che Javier Zanetti alza nel cielo spagnolo, la mostra a tutti i tifosi dell'Inter, e parte ufficialmente la festa, partono i coriandoli, i confetti, i flash. Adesso è tutto vero, l'Inter ha vinto la sua terza Coppa dei Campioni. Ma io non sapevo se tornavo, è una gioia fantastica per me e per tutti quelli che mi sono stati vicini. È quello che avete sentito a chiusura, ecco, con non noi. Non si può descrivere quello che ha fatto. E voleva solo fumare in quel momento. Leggiamo due messaggi da Facebook, ne stanno arrivando una marea, così ricordiamo. Riepiloghiamo tutto il discorso per chi si fosse messo in ascolto solo in questo momento. Giorno speciale, il trofeo più bello del mondo, quello che premia i campioni d'Europa. Qui con noi alle spalle di Pierluigi Pardo e Giovanni Capuano. L'hanno portato mano nella mano, un manico per uno, sì, Cristian Chivu. Un'orecchia per uno. L'orecchio per uno, Cristian Chivu e Marco Scafù. Tra l'altro ringraziamo i crediti, perché sono appena sbarcati tutti quanti. Prima tappa italiana di questo giro, Radio 24, grazie. Volevo vedere De Luca, tra l'altro il rapporto tra Cafu e De Luca, gli ha detto: ma lavori all'UEFA, perché gli sembra svizzero. Ha capito tutto, Marcos ha capito tutto. È un po' agitato lui. Vai con messaggi Facebook. Allora c'è Alfonso l'ottimista che dice: per la mia generazione oltre 50 anni ho paura che non vedremo mai più un'italiana vincere la Champions. Ottimismo. Diciamogli che non sarà così. Non sarà così. Vincenzo proprio chiede: quando andate in Corea a portarla, non so se bisogna chiedere agli amici. Un messaggio di pace. Sono qui andato vicino. Giulio, per un vero milanista, al massimo della libidine nel 2003, eliminando l'Inter e vincendo la finale con la Juve. È vero? Oh. No, no, io non c'ero ancora, sono arrivato proprio quell'anno. E poi io mi ricordo quando Kibu ha vinto. No, questo non lo leggiamo. E poi c'è un tifosissimo del Napoli che dice che Pendolino Cafu è il suo mito. E grazie. E poi ci sono i sandoriani che hanno brutti ricordi, perché hanno fatto la finale una volta e gli è andato male. Per lo Juventino una croce, una delizia. Vogliamo dare un messaggio a Buffon, a tutti gli altri, che è croce delizia. Bocca al lupo, Buffon. In bocca al lupo, ma davvero, ho avuto opportunità di stare con loro in questi stati, in Stati Uniti. Abbiamo parlato velocemente, però è sempre un esempio Buffon. È veramente non solo un grande giocatore come un grande uomo, è veramente da seguirlo. Senti, a proposito di grandi giocatori, Neymar può essere leader del Paris Saint-Germain e può trascinarlo a alzare questa coppa, perché finora grandissimo giocatore, ma non con Messi vicino, con Suarez sì, vicino. Alzare la coppa, sì, il Paris Saint-Germain ha fatto una squadra, c'è una squadra bravissima, una bella squadra, hanno fatto degli acquisti molto molto importanti, acquisti veramente che costano, però acquisti puntuali, i punti del campo che veramente bisognava il Paris Saint-Germain. Essere un leader dipende. Essere leader non è così molto molto facile, essere perché quando leader costi così tanto si chiederebbe pure quello, infatti, ma non vuol dire che uno che costa tanto per forza naturale deve essere leader. È uno naturale, vede nel Barcellona ce l'aveva Messi, lui, Iniesta, Suarez, non era proprio un leader. C'era Messi ma non era proprio leader, ce l'aveva l'altri che erano leader. Certo. In tutte le grandi squadre non vuol dire che quello che costa di più per forza deve essere certo il leader, però Neymar è stato acquistato proprio per cercare insieme ai compagni di vincere qualcosa di importante. Secondo me la cosa più importante per Paris Saint-Germain in questo momento è quella coppa. C'è Tilio da Milano che ha visto due finali dell'Inter, una col padre e l'altra coi figli. Grande. E spera di una terza. Lo facciamo con parlare. Attilio, ciao. Ciao. 800 24 00 24, potete intervenire, ragazzi. Attilio, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo soltanto dire e ringraziare tutti i giocatori dell'Inter perché mi hanno dato un'emozione incredibile a Madrid, ero là con mia moglie, mia figlia, mio genero, e mi sono ricordato quando ho visto a Milano la finale vinta col Benfica sotto l'acqua al terzo anello con mio padre. E vedere un interista, vedere alzare due coppe, penso che non sia proprio una cosa da tutti i giorni, e penso che la terza non la vedrò. Ottimismo. Spendiamoci sui nipoti, di impegnarsi sui nipoti, che ci sarà una terza coppa. Me lo sento. Per la cronaca, Terzonello all'epoca non c'era, era il secondo, c'era, certo, no? Perché non c'era. Ma voi vi rendete conto? Pensate mai a questo? Per quante persone siete importanti? Quante persone rendete felici? Quante persone a quante persone date dei ricordi che non dimenticheranno mai? Ma ci pensate mai a sta roba? Siamo un po' consapevoli di questa responsabilità che ce l'abbiamo delle famiglie, delle case, delle persone che noi mai abbiamo visti, mai abbiamo saputo che esistono. E veramente per noi un semplice gesto, alzare la coppa, riusciamo a fare felici gente da tutto il mondo, perciò siamo un po' consapevoli di questo. Per questo quando si perde una partita non è che sentiamo tanto come dicono loro, sentiamo come senti tutti i tifosi, nessuno certo va in campo per perdere. Assolutamente. Tu Chris, sei sul poster magari nella cameretta di mille persone, milioni di bambini, ci pensi mai? Ma la consapevolezza che con una partita vinta o con una stagione fatta bene, incoronata con un trofeo del genere, rende felice migliaia di milioni di persone, e poi soprattutto tifosi interisti che avevano aspettato tanto tempo. Regalare una gioia del genere significa tanto anche per noi, e tuttora andando per le strade di Milano incontri gente che ti ringrazia, gente che che cioè, hai brividi che proprio ti vuole di bene, parlarti, anche se non ti conosce, stringerti la mano e ringraziarti per quello che hai fatto, perché magari per una notte o per un po' o per una vita, per una vita gli hai regalato questa sensazione. Senti, Andrea da Nova Gorica, che quindi è subito al confine sloveno, ci chiede qual è stato l'attaccante più difficile da marcare per tutti e due, il più forte che avete visto. Ronaldo per me. Com'era? Anche per me. Ronaldo, parliamo del fenomeno, Ronaldo, ovviamente. Fenomeno. Com'era Ronaldo come compagno di squadra in nazionale, Marcos? Come compagno era impressionante, fortissimo, un ragazzo veramente d'oro, un compagno, un vero compagno di squadra, un compagno di famiglia, un compagno di giorno a giorno. Come calciatore, cosa si può dire? Niente da dire da Ronaldo, era impressionante a forza che aveva Ronaldo, a forza fisica e a facilità di fare cambio di direzione, era una roba veramente difficile da marcarlo. Come facevi, Chris, a marcarlo? Lo randellavi? No. Recitando il Padre Nostro sperare che non è in giornata. No, era pazzesco, un'esplosività, una velocità, fare cose col pallone in quella velocità io non avevo mai visto, e tuttora ancora non ho visto uno come lui. Fortissimo. Penso che averlo nella tua squadra ti rendeva più tranquillo quando dovevi affrontare. Molto più tranquillo. Tra l'altro oggi fa 41 anni, quindi sì, l'occasione gli facciamo gli auguri. Ma oggi il Brasile non ha un talento così. Parlavamo prima di Neymar. Purtroppo non ce l'abbiamo. Sei ottimista o pessimista che c'è il mondiale per il Brasile, che deve dimenticare quello che è successo 4 anni fa? Per mondiale molto ottimista. Molto. Sono molto convinto che il Brasile farà un mondiale veramente giocando quello che sa giocare e giocando con qualsiasi nazionale come gioca il Brasile, come deve essere, come deve giocare il Brasile. Abbiamo passato un periodo difficile nelle qualificazioni, adesso abbiamo avuto dei risultati bellissimi, 10 partite, 9 vittorie, un pareggio, Brasile va benissimo, adesso ce l'abbiamo portero, difensore, centrocampo, attaccante, ce l'abbiamo una squadra molto compatta. L'allenatore pure ci vede, l'allenatore è molto bravo, l'allenatore è bravo perché riesce a leggere veramente quello che c'ha in mano e mettere nel posto giusto. Manca solo il leader. Manca solo il leader. No, visto che parlavamo prima di Neymar, della leadership. Manca, non lo so se manca, perché adesso ce l'abbiamo proprio il Miranda, che è uno che può fare questo lavoro, che è un giocatore esperiente, un giocatore che ha giocato già di tantissima parte, ha fatto il capitano un paio di volte. Che i tifosi dell'Inter, tra l'altro, mettono in dubbio, contestano. Guarda, lui è fortissimo, non è perché è brasiliano, è uno che gioca, lavora e va via. Non è uno che fa come una pluma. Lui va là, gioca, fa quello che deve fare e basta. Per noi è molto, molto importante. E poi c'è un senso di difendere, di anticipo che è impressionante. Secondo me può essere un leader dal Brasile. Allora, ci fermiamo un attimo per il traffico. Poi abbiamo in linea Gianluca da Bologna, Carmine da Roma, molti altri, 800 24 0024 che vogliono approfittare di questa straordinaria occasione. I love this game. Tutti convocati. Tutti convocati. E adesso Cristiano Ronaldo. Se fa gol lui è finita. Rincorsa da pistolero. Fa lui col destro. Rete! Rete! Non può sbagliare Ronaldo! Non può sbagliare il migliore di tutti! Il Real Madrid è campione d'Europa per l'11ª volta! Ancora verso Modric, sul fondo, riesce a metterla in mezzo. Ronaldo, rete! Cristiano Ronaldo sbuca come un fantasma alle spalle di tutti. Incredibile, 3-1. Es una competición que me gusta mucho jugar, una competición de Real Madrid, es una competición que nos gustamos mucho y obviamente que estoy muy contento por el bater el récord por primer equipo 2 años consecutivos y también el primer jugador 5 años consecutivos de ser el Pichichi de la competición. Muy contento. E questo è il signore, l'attuale signore proprietario padrone. Sai parlare con l'accento portoghese come Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. No. Il fa molto rap, che è un giocatore portoghese. Senti, invece Totti come parlava, visto che ci avete giocato tutti e due, e che effetto vi fa vedere Totti che ha chiuso dopo 25 anni una carriera leggendaria lì in tribuna? Ah, io ho avuto opportunità di giocare 6 anni con Totti. Ho visto il migliore Totti di tutti i tempi giocando, quando abbiamo vinto il Scudetto un anno dopo. Veramente è un ragazzo d'oro, un ragazzo che speriamo che lui possa fare tantissimo sia per la Roma che per Roma, visto che lui veramente è un simbolo di quella città e di quella squadra. Come calciatore, cosa che devo dire? Tu credi? I suoi 6 con i miei 4, poi altri 6 dopo che mi hanno lasciato, fanno 15 anni giocati a alto livello. Il miglior Totti è che ci ha fatto regalare delle giocate pazzesche che rimangono nel nostro cuore, rimangono di tutti quelli che amano il calcio, perché è un giocatore fondamentale, è un giocatore che oltre alle qualità tecnico-tattiche che aveva, anche una bravissima persona, e questo è un leader. Fa la differenza. È stato leader? Sì. Ma quando eravamo là, sì, era uno dei leader. Diciamo che in uno spogliatoio dove c'è Totti non può che non essere il leader. Magari a volte lui, essendo così buono e così tranquillo, non dà quella sensazione che ti dà un giocatore che parla molto, che certo, ti trasmette qualcosa, ma solo il fatto di averlo accanto, solo il fatto di vederlo allenarsi, vederlo giocare, certo. Senti, andavi alle riunioni di condominio, Marcos, a Roma? Andavi? No. Non partecipavi? Beh, ecco, ti perdevi Carmine che dice, sostiene, no, spero non stia millantando, ma sicuramente no, di aver abitato nello stesso palazzo. Carmine, buongiorno, dove sei? Sì, mi senti? Certo. Buonasera. Com'era Marcos? Com'era che fu nel palazzo? No, faceva casino? Stendeva sul balcone? O come fosse? Ma lui credo che abitasse all'Attico in viale Cesare Pavese a Roma, all'Euro, diciamo, per chi conosce Roma. Vogliamo dare anche... Sì, abitavo lì, ma non nell'Attico. Non nell'Attico, no, era ragazzo però, umile. Ma le pallonate si sentivano dappertutto. Era mio figlio, era piccolino, poverino. Sì. No, perché ci sarebbe, si è rotto, scusa un attimo, Carmine, ci sarebbe un problemino, si è rotto un vetro, Marcos, sarebbero 5.000 euro, ma non sarà un problema, no? Saldare un vetro del palazzo, si è rotto. No, a quella epoca non c'era euro ancora. Non c'era. Costava molto di meno. Vai, Carmine. Vabbè, ma non so se lui si ricorderà un particolare, che c'era la guardiola del portiere e aveva lo scudetto della Lazio all'interno della guardiola. Sì, e mi ricordo bene, e il portiere era... Mi aiuta, per favore, come si chiamava? No, io abito al palazzo, però non ero il portiere. Ah. E io poi sono di Federaziale, quindi appunto... Era Laziale proprio lui, eh? Sì, molto, questo lo ricordo. Non gli dava mai la mancia. Non ricorda il nome, perché poi non c'è stato più il portiere. È stata il citofono, se è passato al citofono che era meglio. È vero. Gianluca, Bologna, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo chiedere questa cosa qui. Come si fa, dopo aver vinto anche il trofeo più importante, che fu anche i mondiali, a ritrovare gli stimoli? Perché io lessi una volta un'intervista di uno dei grandi giocatori di volley della nazionale di Velasco, che dopo aver vinto tutto disse, poi ci guardammo in faccia e disse, adesso cosa facciamo? E l'altra per Cafu, un mio idolo, Carlo Ancelotti, quanto ha contato nella perdurare della loro carriera, insomma, perché comunque quando vinsero la Champions non erano più giovanissimi. Seedorf disse che fu fondamentale. Grazie, sì, vi saluto. Ciao, veramente sì. Ancelotti è stato fondamentale, importantissimo. Mi ha dato tantissima fiducia. Io ho cercato proprio di fare il mio meglio. Lavorava, giocava, cercavo di fare tutto quello che mi chiedeva Ancelotti. È vero, sono arrivato nel Milan con 32 anni. Difficilmente il Milan poteva fare un acquisto di un terzino con 32 anni, non poteva aspettare tantissimo di un giocatore con questa età, e io sono proprio mi donato al 100% nel Milan, 100% in quello che io facevo, sia allenamento che in partita, per cercare di fare meglio quello che io sapevo fare, che era giocare a calcio. Perciò l'istimolo è naturale, l'istimolo è di ogni persona, bisogna cercare il tuo stimolo per giocare a calcio o basket o qualsiasi altro sport. Ci sono due messaggi. Davide, che non dimenticherà mai il triplo sombrero di Cafu a Nedved in un derby di Roma, immaginiamo che Davide sia un tifoso della Roma, e Giulio di Taranto, interista etero, lo scrive lui, insomma puoi essere ciò che vuoi, però dice che ti ama e ti ha sempre amato da appena sei arrivato alla Roma. Insomma, un'amicizia virile, una grande passione quella di Giulio nei confronti di Cristian Kivu. Continuate adesso a chiamare 800 24 00 24. Abbiamo un'altra mezz'ora insieme oggi, sì, eccezionalmente, certo. Arriveremo fino alle 3:30. Falco e Gabbiano, Enrico Ruggeri, grande tifoso dell'Inter, arriverà subito dopo, cioè alle 15:30, con ovviamente continuando a parlare di calcio, Eleni Herrera, il mago che ha rivoluzionato il calcio, dopo con Ruggeri. Ma dopo Gere torniamo noi, Champions League, Cafu, Kivu, qui ascoltatori 800 24 00 24. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. Todo afectuoso para nuestro amigo Pino Insegno y todo el equipo del Voice Anatomy, ya tú sabes, de la Radio 24. Hallo Leute, liebe Grüße aus Deutschland an die ganzen Freunde von Radio 24, Pino Insegno, und an alle die Leute, die in der Voice Anatomy arbeiten. Tschüss! Hola, soy Francisco y desde Santiago de Chile le quiero mandar un fuerte saludo a todos mis amigos de Radio 24, en particularmente a mi amigo Pino Insegno y a toda su gente de Voice Anatomy. Mucha suerte y nos vemos pronto. Tutte le domeniche, dalle 14 alle 16, Voice Anatomy, ovviamente, su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Tutti convocati. Asensio col mancino morbido, 100 volte Cristiano, doppietta nella notte di Monaco. Alaba va al cross lungo verso Vidal che schiaccia Lewandowski in rete. Lewandowski, tutto riaperto adesso. Wayne in mezzo, arriva anche Dybala, prova a girare subito, rete, un altro capolavoro incredibile, Dybala. Chelsea again, Morata! Alvaro Morata has these Chelsea fans roaring again! Et Neymar, voilà! Et le voilà, le premier but de Neymar en Ligue 1 sur un service d'Edinson Cavani! Et le Brésilien, une relation qui est en train de naître! Toutes les promesses du Paris Saint-Germain sont là! Ci sono spazi e attenzione a Messi, Messi, Messi fino in fondo, Messi, Messi, Messi è mostruoso, lo puoi dire. Messi è mostruoso, lo puoi dire. Quest'ultima voce mi sembra di conoscerla, Pierluigi Pardo che racconta Messi è mostruoso, Messi è mostruoso. Allora, Messi tempo è supplementare oggi per tutti i convocati, perché Cristian Cafu, Cristian Cafu, mai faccio casino. Cristian Kivu, Marco Scafu. Cristian Cafu, Cristian Cafu. Una crasi, una crasi. Un po' che la Champions qui con noi. Abbiamo sentito una Seleção dei grandi bomber di questo torneo. Vediamo chi riesce a. Allora, pronosticone, dai, è venuta così. Chi vince la. Chi alza quella roba lì? Chi comincia, ragazzi? Stavamo parlando prima. Dovete dire meno di 5 nomi. Se no è troppo facile. 4. Sarà molto difficile, secondo me. Il Paris Saint-Germain ha fatto una squadra proprio per vincerla. Sì. E non è facile fare una squadra e vincere subito nel primo anno, però. Poi ce l'abbiamo tutte le altre squadre che sono già abituate con questo tipo di competizione, arrivare in finale come Barcellona, Real Madrid, la propria Juve. Ci sono quest'anno veramente, sarà dura fare un pronostico di chi vincerà la Champions League veramente. difficili. Posso chiedere a Cristian, visto che lui conosce bene Mourinho, se guardandolo in faccia, poi so che l'hai anche incontrato recentemente, lui ha in testa che questo può essere l'anno del Manchester, è il suo... Tutti allenatori, secondo me, una volta che capita a allenare una grande squadra o quelle che sono tra le prime cinque del mondo, hanno in testa di vincere. Come primo obiettivo era di tornare a fare la Champions, ci è riuscito vincendo l'Europa League. Adesso ovviamente mano a mano andando avanti vedrai anche, perché lui, è una competizione seconda, famosa diversa. Seconda stagione, sì, però purtroppo a Manchester gli ultimi 4 anni ha avuto un calo dovuto alle scelte di allenatori, dovuto anche alle scelte di alcuni giocatori che magari non erano da Manchester United. È arrivato lui, come primo obiettivo era vincere, di portare di nuovo consapevolezza ai giocatori ma anche ai tifosi che Manchester rimane comunque una grande squadra, non a caso è quella che fattura di più tutti gli anni. Certo. Bisogna vedere il brand bisogna vedere. Non gioca il brand, non gioca il fatturato, ma e gioca... neanche l'estratto conto. Senti, a proposito di fatturato, vi piace l'idea della prossima Champions che tutela di più i campionati forti ed è più simile a quella Superlega che molti club, almeno a parole, vorrebbero? Ma secondo me è una competizione in sé, le favorite sono sempre le stesse, cioè quelle che possono arrivare in semifinale o in finale sono 10 squadre, non di più. Certo. Secondo me si possa anche dare una mano a quelle che magari sperano di entrare soltanto nella fase a gironi, dove possano prendere dei soldi che per una squadra, per esempio in Romania, che entra nei gironi, i 20 milioni o i 17 milioni che li entrano, certo, nei conti dopo la fase a gironi, ma pur non passandola, sono quattro stagioni. Che effetto vi fa? Uno è abituato a Moratti, un ragazzo simpatico, e l'altro è abituato a Berlusconi, caro Marcos, ti saluto. Che effetto vi fa vedere le due milanesi in mani cinesi? È una... Permesso che insomma siamo tutti cittadini del mondo, viaggiamo, voi viaggiate anche molto più di noi, quindi è una cosa bella, è una cosa positiva, oppure fa un po' effetto? Guarda, dipende da che punto di vista riusciamo a vederla. Certo, vedere Moratti che è innamorato, appassionato per la sua squadra, e vedere Berlusconi che è innamorato e appassionato per la tua squadra è diversa di vederla delle gente che acquistano delle società, non lo so se per fare business, non lo so se per fare qualsiasi altra cosa. La differenza è il cuore, è veramente l'amore che loro avevano, la passione che loro avevano per la loro squadra. Questo non avrà mai in altro presidente, in altre società o in altri investitori quando acquistano delle squadre. È molto diverso, però sono lì, speriamo che loro possano cercare di fare dei grandissime squadre e tornare a essere competitivi. Insomma, dici che il cinese non la fa la formazione del Milan come faceva Berlusconi. No, Berlusconi entrava proprio sullo spogliatoio, diceva dovevo fare così. Ma è sempre scherzando, perché lui era uno che veramente capiva del calcio. E l'ascoltavate? No, quindi. No. questa cosa l'abbiamo detta, ci vergogni. Vai. Scherziamo, ma... Sì, mancano, sapere gli Spalletti da mancano te, persone come Moratti, come Berlusconi, come Sensi a Roma, perché l'abbiamo conosciuto, gente che metteva il cuore, gente che era molto appassionata e ci teneva la squadra. Oggi come oggi tutte e tre, tra l'altro Roma, Inter e Milan, hanno cambiato società, sono arrivati stranieri. Sì. Il capitalismo è entrato anche società globale. Senti, Spalletti è l'uomo giusto per l'Inter? Secondo me sì, secondo me la scelta migliore da fare, viste tutti questi anni ultimi che dovuti a mille cose, Spalletti l'uomo giusto secondo me. Il grande acquisto dell'Inter, pur che si parlava dei 200 milioni come budget per spendere per comprare i giocatori, cosa che non è accaduta per vari motivi, Spalletti è il miglior acquisto dell'Inter. Ma dentro lo spogliatoio Spalletti è come appare a noi quando viene poi in conferenza stampa, parla un'ora, usa vorresti dire comportamenti, usa quelle metafore ti striglia, è in guerra perenne con tutto il mondo. Cioè, quello che ti ha fatto iniziare a fumare, Cristian, diccelo, perché si può dire. Fumavo in serie allora. No, è molto pignolo. Sì, anche le riunioni sono quelle che, dove parla, però tratta sempre l'argomento giusto, tocca sempre l'argomento giusto. È uno che in campo lavora tanto, uno che prepara la partita come pochi, ne ho incontrati io, e ti insegna tanto. Napoli-Juve sembrano le due favorite, sono in testa alla classifica da sole, insomma, che sensazione avete? Che alla fine poi la Juve si sia rafforzata anche quest'anno oppure no? Da chi partiamo? Secondo me, chi lo vince? Secondo me sì, cioè, è più forte anche la Juve. Sì, è andato via due pezzi importanti della squadra, e il concetto è sempre lo stesso, la maniera di giocare è sempre la stessa dell'Inter e di Napoli. L'Inter è di Napoli e della Juve. La Juve è quella che non molla mai, è sempre la squadra che comincia il campionato a 100%, cerca di fare più punti possibili, poi per togliere questi punti è molto molto difficile. Napoli è sempre la squadra che sempre tifiamo per arrivare sempre più lontano possibile, speriamo che quest'anno possa arrivare molto lontano. Ha cominciato bene, perché gioca benissimo, perché gioca bene, ha cominciato bene il campionato, tutte e due squadre. Vediamo, Cristian, a me manca anche a lungo ancora il campionato. Aspetta, a me manca il pronosticone di Kivu sulla Champions League, sulla vittoria finale, perché Marcos ha fatto 10 nomi. Ma la Champions, ma come fai a ma è uno, sensazione, emozione. Io dico Bayern Monaco. Vabbè. Ma sì, dai, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Napoli. Cioè, come fai a pronosticare la Champions? È difficile. Senti Cristian, esco un attimo sgommata a bordo pista. Forse tu sei uno di quei campioni che può aiutarci a capire cosa sta facendo in questi giorni Valentino Rossi, no? Perché tu hai avuto un infortunio serissimo e a distanza di 4 mesi hai alzato questa coppa. Valentino, infortunio molto grave, 21 giorni in pista e vedremo che succede. Ma siete pazzi oppure ci avete il cuore, l'anima, la mente? Non sono pazzi. Più grande di noi. Diciamo che l'amore per quello che fai supera qualsiasi difficoltà che incontri durante la tua vita. Valentino non è la prima volta che fa una cosa del genere, quando scarta tutti i tempi che i medici o che un essere umano può per guarire li dà. Il fatto di amare tanto quello che fai, il fatto di avere la consapevolezza, uno come lui poi, un grande campione che è un esempio per tutti gli altri, uno che il MotoGP l'ha portato veramente in alto da solo, ti viene questa voglia di superare, non voglia, questa cosa di superare qualsiasi ostacolo che hai durante la carriera. Vederlo a 20 giorni camminare senza stampelle, quando lui dentro ha una vite nell'osso che gli tiene la tibia, è pazzesco. Però l'amore per quello che fai ti fa diventare supereroe. Superman. Ma non dimentichiamo che i piloti sono così. Sì. Jorge Lorenzo ad Assen si fece male il sabato, venne frattura scomposta della clavicola, viaggio volo verso Barcellona, placca di titanio, il giorno dopo correva. Sì, sì. Non dimentichiamo questo. Lorenzo d'Ancona, ciao Lorenzo. Pronto? Come pronto? Va? Lorenzo. Dai, facciamo tutto un passo bene. Avanti, diciamo pronto, qualcosa. Sì. Dai, ciao Lori. Ciao, no niente, volevo fare salutare Cafu e Kivu, che tanta nostalgia per quei giocatori che purtroppo adesso non ci sono più in campo. E no, volevo chiedere una domanda da $1 million, volevo chiedere la differenza tra lo spogliatoio, sia quello dell'Inter che quello del Milan e quello della Roma, e perché la Roma, insomma, dopo lo scudetto non ha più vinto trofei importanti, nonostante le Coppa Italia, Supercoppa, eccetera. Cosa manca? Tanti secondi posti, tante volte ci è andata vicino, insomma sono stati anni comunque di alto livello, però lo scudetto, l'ultimo scudetto è il tuo. Come sta arrivando, ci sta arrivando. Prima o poi arriva un altro scudetto alla Roma. Spogliatoio veramente è diverso, le squadre sono diverse, la società è tutta diversa. forse pure la mentalità vincente è molto diversa di quella che avevamo prima. Qui loro veramente hai questa mentalità dall'inizio alla fine che possono vincere lo scudetto, anche se succede qualcosa di sbagliato, anche se perde una o l'altra partita. Dopo quello scudetto che abbiamo vinto, veramente manca ancora un altro scudetto alla Roma. Può darsi che arriva quest'anno, chissà. Cristian, il Ponentino a Milano non c'è. Quello che ti fa sentire la pressione addosso, ti mette i brividi. È sempre primavera lì. Io ribadisco, ho sempre detto che chi riesce a giocare nella Roma può giocare ovunque. Secondo me manca la tranquillità, manca la serenità di capire che comunque vada una stagione, se ne vinci 10 di fila e dopo ne hai perso una, non cambia niente nel giro della squadra, in quello che dovrebbe essere la mentalità vincente. Purtroppo a Roma diventa un caso. Dopo che hai vinto 10 di fila e ne hai perso una, è finito il mondo e saltano tutti anche gli equilibri. Di Francesco che danno... era partito con grande scetticismo, adesso ha vinto due partite alla grande, poi si dirà che insomma Verona e Benevento non sono esattamente Real Madrid e Barcellona, però intanto le ha vinte molto bene, Dzeko segna, insomma forse bastava aspettare qualche giorno. No? Quando si troverà una via di mezzo? Ad essere mai. Proprio... Mai. Sereni... avrà più possibilità di vincere. Domani c'è il derby di Torino. Fai fare il derby sì, di Torino? Sì, sì, sì. Con la voce di Pardo, giocare il derby di Roma io credo sia una cosa da fuori di testa, cioè è una cosa che ti manda ai pazzi. Pardo, sei romano, come sì, dici? Sì, sì, no, ma è chiaro, sai che insomma, forse sono, è il limite, no? È il grande limite. È la grande forza, è il grande limite. Il grande insomma, limite. L'entusiasmo è una cosa bellissima, voi ve l'avete provato in prima persona e penso che poi alla lunga una città che vive 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno, di una squadra, dalla Roma alla Lazio, ma lo stesso discorso vale per Napoli, vale per Firenze, cioè sono città dove il calcio è ragione di vita, quindi è bellissima la cosa, però magari qualche volta può mettere un po' di pressione in più. Tutto qua, penso, no? Sì, è vero. Ragazzi, è vero. Quando è che Dybala diventa Messi? Messi sarà sempre Messi. Non si possono fare paragoni. Assolutamente no. Messi è unico. Dybala può crescere ancora tanto, ma Messi è unico. Sì, come fare, un paragone Messi, Maradona, Neymar, Pelé. No, piano. Dybala è veramente fortissimo. Cafu, molto Daniel Alves. Cafu, Daniel Alves, giocatore buono, giocatore che tem um livello molto bom, ma Cafu è tutta un'altra storia nel mondo, dai. È bravo Daniel Alves, pure. Ma Dybala è un grandissimo giocatore, ma io non sono proprio d'accordo in fare paragoni tra lui e Messi ancora. Tutti e due abbiamo... la sesta squadra serve proprio il massimo. Allora, devo fare il notaio coi baffi e con la barba. Chiusura 26, abbiamo 2 minuti. Giuseppe, provincia di Bat, che credo stia per Battipaglia. No. Barletta Andrea, come ti permetti? Ma che ragazzi di rispetto è? Ignorante! Diglielo Giuseppe! Sì! Bianca, lei è un ignorante con tutte le scuse del caso. Sì, ha ragione. Ammetto, zero in geografia. Zero in geografia. Esattamente, bisceglie. Bisceglie. Dai, però andiamo veloce perché stiamo per chiudere. Assolutamente. Un saluto alla signora con le orecchie che ho avuto il piacere di festeggiare ben 6 volte. Una sulla squadra, ne ha vinte più di 6, cioè 7. Marco Scafu. Ci sarebbe anche il Real Madrid, amico mio. Volendo. No, in Italia. Sì, proprio. Permetti, in Italia. Detto ciò, un saluto ai vostri ospiti. Marco Scafu, una domanda. La chewing gum che mastica da sempre, che marca è? Ma soprattutto la cambio. Non posso fare pubblicità adesso, non mi pagano. Ma soprattutto la cambio ogni tanto. Sì, ogni tanto adesso l'ho messa parecchio in bocca, perciò non posso... Però gusto possiamo dirlo, fragola, menta. Fragola. E gusto è di fragola. Senti, tu che hai vissuto tanto al Milan, Bonucci è il capitano ideale, avresti accettato un capitano che arriva e gli danno la fascia? Guarda, lui è stato pure capitano di una grande squadra mentre giocava nella Juve. Può essere capitano senza problemi. Non è perché è arrivato adesso che non può essere capitano. Uno arriva già con l'esperienza, con tutto un bagaglio nella spalla di tutte le squadre che ha giocato, con tutto il campionato che ha vissuto, può essere capitano giusto, sì, secondo me. Allora ragazzi, dobbiamo chiudere questa puntata meravigliosa. Posso semplicemente invitare ovviamente Cristian e Marcos domani mattina, a che ora vi svegliate? Presto, io ho l'appuntamento domani alle 8:30, perciò mi sveglio presto. Poi alle 9 c'è Mangia come parli con Oldani, la puntata dedicata al riso. Ah. Che rapporto avete col riso? No, non riso nel senso che ridi. Riso stavo per fare una battuta. Lascia perdere. Va bene. Aspetta, dobbiamo salutare. Ringraziare Marco Scafù, Cristian Chivu, ringraziare tutti quelli che sono qui e che ci hanno portato questo trofeo meraviglioso in studio. Amici di Unicredit, la Champions League, naturalmente devo dire che dal 23 settembre al 22 ottobre questo trofeo alle nostre spalle farà visita ad 8 città in altrettante regioni, prima tappa qui a Milano sabato, cioè domani e dopodomani, poi si va Torino, Verona, Bologna, Bari, Palermo, Napoli e Roma, e durante questo tour ovviamente gli appassionati avranno la possibilità di farsi una foto con questo. Va bene, salutiamo tutti, Pardo, Capuano, Ricci, De Luca, Domenica. Molto brigato. Ciao, adesso Ruggeri con Elenio Herrera, il mago che ha rivoluzionato il calcio. Un falco e un gabbiano. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti.